sento, e non so se lui sente a me, lo saluto con la buona domenica anche a lui, però non lo sento per niente. Oh già, io ne approfitto, devo uscire, per cui approfitto e chiudo. Ringrazio della chiacchieratina, ha fatto il piacere che vi ho sentiti, e ci sentiamo alle prossime già. Buona giornata e buona domenica a te, famiglia, e idem a Natalino anche. Natalino, riprendi tu e io chiudo, dai. Ti ascolto per il finalino e chiudo. Vai Natale. Ehi, ciao, buona domenica. A già, non lo sento, me lo saluterai. Anch'io ho sentito che sto aspettando la telefonata di mia moglie deve chiamare Bru. D'accordo, ciao Natali, sentiamo. Ti saluta Natalino già che sta scrivendo anche lui. Per cui ciao, a te ancora e chiudo, vai. Ok, grazie Gio Maria, grazie Natalino. Allora, ci sentiamo alle prossime. Se ho chiesto come ha aperto il baracchino l'altro giorno, ho chiesto di tutti, i colleghi della frequenza. Niente Gio Maria, è stato un piacere. Un abbraccio a tutti, a te Natalino. Adesso mi faccio due chiacchiere con Marco. Avanti Marco. No, senz'altro, ma io ho un pre, diciamo, alimentatore, siccome funziona. detto perché c'è il movimento e c'è il rumore, là. Magari dopo quando mi fermo riesco a sentirlo meglio. Ok. Roger, già, no, niente, io mi ho acceso, così per l'altro giorno mi stavo facendo un intestino che forse è l'alimentatore, trasformatore di tensione che c'è, che fa, che cattura le tensioni. Scaldando in prima, adesso lo sto alimentando al 12, va alla grande, e gli avrò abbassato la tensione perché... contornatemi. Qualità e no, sto dicendo a Marco, al mio dirimpettaio, quello che abita in zona, diciamo, agricola, vai, diciamo, lui c'ha la sua azienda. Mi ascolti, ma... Sì, allora, ascolti, già ne ho più. Io ogni tanto mi faccio una chiacchierata con Marco. Ok, adesso già, perché anche molte volte noi ci fanno un mare, perché quando sono i camionisti qui durante il giorno diventa, e a qualche modo ho anche avvertito di persona, se ne vanno io sotto la luna. Devo metterci un'anima dentro, un'anima perché adesso per lui sta chiudendolo con l'altro. sempre in quella via dei canali, non vogliamo una M, se c'è da passare lui, in altri canali attacco la 78, 400, ma avrei voluto questo che non c'è le palle. Ok, cosa ti volevo dire, ma una cosa, quindi la bella la piatti stazione fissa? Parlando di aggiustato io già, non so, i giochi, non li scoglio, io i giochi li aggiusto sempre, quindi ho detto interessato, dopo tanti anni ho detto che li dai a lui, hai capito, se no quel prezzo lì era, diciamo, accettabilissimo il prezzo di tutti e due, e niente, piuttosto mi interessa quello manuale, se ce l'hanno ancora me lo compro, quello da MP2, quello che è venuto tu a Stefano, non lo so se ce l'avranno ancora. Niente, che io le ho lasciate per Natale, Natalino, quella appassionata, ho visto un Farmer P2 già, lo sai quando lo stanno prendendo? In internet, 200 euro. Che esagerazione. 200 euro già, 200 euro, l'ho visto l'altro giorno, stavo scartafogliando in internet, e il prezzo è alto perché a 200 euro già compro un microfono alla radio amatore. Ma non va bene per me. Io no niente, adesso mi devo comprare un SM20 per la linea Icon. Perché non l'MC60 che è buono? MC60, ma quelli ci va quello. Ma perché funzioni? Se mi dici che va bene anche l'MC60, tu dici? Se non te lo so dire, non voglio dirti una cosa per un'altra, questo io già lo sa. E no, io già ho detto così, ho detto per il significato che già avendo il vecchio, non mi scusa, ma questo non mi ha chiamato con già, già avendo la vecchia rivista del 90, che c'era l'apparato, e ho visto tutte le cose che si potevano, ho cercato il microfono, perché quello c'era manuale, e mi è mancata questo SM20, quindi mi sono basato su quello, mi sembra che un SM20 costa già 180 euro. 170 ne costa le 2060, 175, una cosa non che mi sarà aumentata anche quello. Oh già. Ma io già sono nel dubbio ordinare. No, perché se ce l'avevo passata non c'è nulla, sono andato l'altro giorno da Antonelli alla da Fusaro, per esempio se c'era l'MP4 e niente, ad esempio ogni volta lui li deve ordinare, li deve ordinare, non c'è mai nulla, quindi già è inutile, capito, non so, tecnocomunicazioni ce l'ha l'MP4. Cosa ti stavo dicendo? Che Fusaro è come gli altri, mi ha fatto aspettare 2 mesi per l'alimentatore e poi non l'ha mai ordinato. No, ma conviene già comprare via internet e non stai a rompere le cose. Poi in benzina andare. Non è nemmeno più qua, non volevo prendermi, così giusto per averlo. Niente di... Però adesso sto guardando su internet e ho visto diversi negozi che trattano materiale anche a seconda mano garantito, come microfoni, come... Hai capito? Come trovo l'occasione già. Capito, mi fornisco, mi rimpiazzo tutta la roba di microfono, il carne che sono in trattative e tutte le cose belle, hai capito che? Soltanto mi sembrano a farlo riparare a quelli di soli e ci vogliono 50 euro, quindi penso con 70-80 euro che lo provo. Riprendi Marco. Cioè, ma Palax che c'è per il quinzimetro. Lo paghi, ce l'ho anche io. Io quanto? Non ne parlo qua. Ok. E quanti canali c'ha? E un bel. Anche gli Alfa c'ha? Sì, tutti qua. Sì, adesso vediamo, adesso lasciami la pregare quello che ho contratto. Hai capito, e poi tu? No, perché faccio una roba già, capito, ordinata con il mobile, con tutte le cose, i deviatori per l'antenna, per non stare, per dire un casino in tu, capito? Non le voglio vedere, con quelli che devo iniziare, voglio essere tutto ordinato, la roba, mi piace vedere ordine. Sì, hai, vabbè, dai, non c'è problema. Resistere perché pesante. Si è appagato, ma no, io già considerato il mio è 120 litri, quindi è già più pesante. E già pesa anche questo, già, meno male per quel volume che si sa, già è forte. Non è però puoi mettere una cosa fragile, no? Se non ci cade, bene, così, perché lì c'è una roba buttata a una parte, invece, e quando è anche piazzato in punto buono. Il piccolino è quello lì, è piccolo, per mettersi tanti pesci è piccolo, i pesci quando l'acqua è piccolo vanno messi graduati, se no poi si prendono le malattie se sono truppi. Ora, questo è piccolo, già l'ho comprato a Claudio quando era piccolo e niente, un regalo per Natale che già aveva i pesciolini di luce dentro un corso, un colore di vetro, noi eravamo andati e avevamo comprato l'acquario. Hai capito? Ma Roberto non si sente più Roberto Quadrato. Oh. Ho saputo che c'è l'esame il 29 di questo mese di radioamatore. Ho saputo lui deve andare lì. No, così giusto perché qualche volta la domenica entrava almeno per salutarci, ma adesso sarà impegnato per questa roba e le faccio tutti i miei auguri, però ogni tanto che si affacci a salutarci. Tu non ci vai. Dove? A dare l'esame. Ragazzi, voglio guardare, cosa roba. No, avevo studiato un bel po'. Dovevo girare il testo radiotecnica per radioamatore. Già, Sagonca non mette cellula all'altra sessione. Capito adesso, non sono in cerca di proprio, mi sarebbe piaciuto, però diciamo di andare a tentativi a quelle cose, non fai preparato andare così a tentativi, no, non ci va, no, ma ci saranno altre occasioni già. Capito, so anche aspettare, già. Anche aspettare magari a giugno quando sarà l'altra sessione, se la fanno, vado volentieri, oppure aspetterò di nuovo a ottobre, cosa vuoi, io sono fatto così già. Ho fatto fuori, cos'è? Vediamo la patente, un riporto andiamo sempre in 27, capito? No, se prendo quella roba, la piccola 27 mi ha dato grandi soddisfazioni. Un po' a posto qui la roba e...